Ecco, noi veniamo in chiesa alla Santa Messa anche per imparare la nostra fede. Non si è mai finito di imparare anche da adulti. E il miglior modo per imparare è quando ti viene proposto un esempio, un modello. Le parole convincono, ma l'esempio trascina. Oggi ci viene proposta nella seconda lettura l'esempio, il modello di San Paolo, il quale racconta come lui è stato preso da Gesù ed è stato perdonato. San Paolo era un uomo in gamba, anche prima di diventare convertito. Era un puro, uno deciso, magari un tantinino anche estremista nella sua fede. Tant'è vero che si era offerto di andare ad arrestare i cristiani. Ma era una persona onesta. E Dio stesso, mentre è in cammino per andare a Damasco, Dio stesso lo converte. Forse non vale la pena ripetere l'episodio della conversione di Paolo, perché l'abbiamo sentito dire tante volte. E da convertito non perde il suo slancio. Sarebbe bello conoscere tutta la vita di Paolo, perché è stato un leader, è stato uno che ne ha passate, l'hanno messo a morte più volte, una volta l'hanno lapidato e l'hanno lasciato lì sul terreno perché lui si è finto morto. Da ultimo, per un tocco di colore, fa naufragio nel Mediterraneo. Approda da naufrago sull'isola di Malta. I maltesi mettono insieme un falò per scaldare e per asciugare questi naufraghi. Paolo stesso prende una fascina di legna che c'era lì per buttarla sul fuoco, ma dentro c'era una vipera che al calore del fuoco si era svegliata, e dopo che lui ha buttato la fascina, dalla sua mano pende giù una vipera che l'aveva morsicato. Allora tutti si aspettavano che crollasse morto, anzi qualcuno diceva: ma questo qui deve essere un disgraziato, perché Dio ha cercato di farlo morire col naufragio, ma c'ha la pelle dura e non è riuscito, e adesso gli ha mandato una vipera. Invece lui la scuote nel fuoco e va avanti. Allora la gente, il popolo è proprio, vedendo questo, dice: allora è un Dio, e lo vogliono adorare come un Dio, capite? Ma questo è solamente dall'inizio, dalla sua conversione alla fine della sua vita, qualcosina. Paolo era veramente un grande. Ebbene, lui dice: io sono un convertito e sono uno perdonato. Se avete il foglietto, vi invito a prenderlo in mano e a seguirmi. È stato letto bene, ma vale la pena riprenderlo per capirlo bene. Io rendo grazie, sta scrivendo a un suo discepolo che era anche un po' suo segretario, Timoteo. Rendo grazie a colui che mi ha reso forte, Cristo Signore, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendomi al suo servizio proprio me, che prima ero un bestemmiatore, ero un persecutore, ero un violento. Ci sarebbero tante cose da dire, amici, che tante volte Dio va a pescare della gente disgraziata, ma li converte e diventano lanciatissimi. Certe volte noi siamo invece dei semifreddi. Mi è stata usata misericordia, dice, perché agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la parola del Signore ha sovrabbondato in me. E dice, vi assicuro che questa parola che vi sto dicendo è vera. E qual è questa parola? Questa. Che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. È umile. Se qualcuno ci desse del peccatore, normalmente noi rispondiamo, oh già, e te chi sei? E adesso io sono un peccatore, ma ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto dimostrare in me la sua grandezza e io fossi di esempio per tutti. Paolo dice, guardate che la bontà di Dio è grande, guardate me, io perseguitavo Gesù, lui mi converte e poi mi usa misericordia. Allora, se ha usato misericordia con me, che ero quello che ero, così sarà anche per voi. Questo è l'esempio di Paolo. A me piace sempre però applicare alla nostra vita questi esempi, in modo che andiamo a casa e portiamo a casa un concetto. In questa predica ho imparato che Dio perdona sempre, anche a me, anche al mio vicino di casa, che io considero mafioso, terrorista, disgraziato. Dio perdona a tutti. Anche se certe volte noi diciamo, ma non è giusto, perché noi ci riteniamo a posto, no? Come due fratelli che vedono che il papà e la mamma trattano bene anche quel figlio che è andato via di casa e poi torna a casa, figlio prodigo, lo ricorderete. E il fratello, quello giusto, dice, non si fa così, allora lo facevo anch'io. Cari amici, la logica di Dio. Ero sacerdote a Milano, un giorno una ragazza del gruppo giovanile mi dice, Don, c'è mia sorella che vorrebbe parlarti, e falla venire. Vedo che in parrocchia mi arriva un certo giorno una ragazza vestita in modo molto appariscente, anche qualcosa di più. Cioè, devo parlarle. Andiamo nel mio ufficio e come entriamo, lei non mi lascia quasi neanche sedere e mi grida in faccia, 3 aborti io ho fatto, Dio mi manda all'inferno. Cioè, siediti, racconta cos'è successo. Io ho fatto 3 aborti, ma mio marito è dentro e fuori di galera e tutte le volte che viene a casa mi mette incinta e poi lo arrestano ancora. Io cosa faccio? Allevo un figlio col papà in prigione? E un sacerdote che è contro l'aborto, che però è a favore della persona, dice, ma se tu capisci questi tuoi sbagli, Dio ama anche te, anche tu sei sua figlia. Pensa, è rimasta senza parole, si aspettava che io la investissi di parole cattive e le ho detto esattamente questo di Paolo, che era un persecutore, che era contro Gesù Cristo, ma Gesù Cristo l'ha accolto. Questo vale per questi casi, è un caso limite questo, ma questo vale anche per noi, sapete. Io incontro spesso della gente che ha fatto degli sbagli, anche grossi, e poi mi viene e dice, io non mi so perdonare. Capisci? Magari l'abbiamo provata anche noi qualche volta. Abbiamo fatto degli sbagli e non mi so perdonare. A chi viene a dirmi questo io gli rispondo: ma se il Signore ti perdona, tu non perdoni a te stessa? Concludo, amici, con un invito, una parola d'ordine: rompere gli specchi. No, non fatelo a casa, è un modo di dire. Noi dobbiamo rompere gli specchi, perché noi ci specchiamo nello specchio. E cosa succede? Che quando ci vediamo a posto, carini, cioè, modestamente, però insomma io sono in gamba quando siamo a posto. O quando invece ci vediamo fuori fase, ecco, sono brutto, sono brutta spiritualmente, Dio non mi perdona più, è inutile, non ce la faccio, è troppo difficile la vita. Rompiamo gli specchi, amici, non guardiamoci più. Vai in chiesa, guarda il tabernacolo, guarda la Madonna, guarda in faccia loro. Mi diceva ultimamente una persona: Don, io ne ho combinate, se il mio matrimonio è fallito è colpa mia, ma io sono pentito, è mia moglie che non mi perdona più. Ma io sono andato l'altro giorno a Caravaggio, che è il nostro più grande santuario della Lombardia, mi sono messo lì in un angolo da dove vedevo giù la statua della Madonna e ho pianto per mezz'ora. La misericordia di Dio è questa, amici: non guardiamoci più, guardiamo Dio, guardiamo la Madonna.